Cosa non farò per farmi amare? Cosa non farò per dirti che? Cosa non farò per questo amore? Per dirti cosa sei per me? Dormo ancora solo in questa stanza, dove al buio i sogni vanno via. Resta solo il peso della mia malinconia. L'amore non si spiega, fa girare il mondo e poi, se non c'è, diventa tutto inutile. Non puoi farne a meno, mai nemmeno quando puoi. Sarà solo silenzio e freddo tra di noi. E volando, superando i monti verso cieli bianchi di libertà. E volando finché tutto il mondo solamente un punto sembrerà. E ora cosa non farò per amare? Cosa non farò per te? Tu sola sei l'amore, tu sola sei per me. Dimmi che vorrai stare al mio fianco, dimmi che sarai solo per me. Dimmi che consolerai il mio pianto ed io vivrò solo per te. Dammi ancora solo un po' di tempo, quanto basta perché poi torni ancora tutto come prima tra di noi. E volando, superando i monti verso cieli bianchi di libertà. E volando finché tutto il mondo solamente un punto sembrerà. E ora cosa non farò per amare? Cosa non farò per te? Stella del mio cuore, splendi su di me. E ora cosa non farò per amare? Non mi chiedere perché. L'amore non si spiega, tu sola sei per me.